Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, una nuova domenica da dedicare a noi per vagare con la fantasia, per conoscere posti nuovi e riscoprire magari luoghi già visitati. Carta e penna per prendere appunti e motore di ricerca pronto per cercare immagini e curiosità sulle località e sugli spazi che vi stiamo per svelare. Il sommario. Questa settimana occhi puntati sul Piemonte, Castello di Serralunga nelle Langhe. Poi ci spostiamo a Torino perché la città e la sua provincia si sono mosse per raccontarsi attraverso le foto, le immagini e i testi di chi le abita. Poi però ci mettiamo anche un pizzico di sud, ce ne andiamo a San Severino Lucano. Questa domenica la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ci porta a Serralunga d'Alba, ad apprezzare il vino anche, ma soprattutto per parlarci di un castello che all'interno nasconde un piccolo tesoro che sembra pensato apposta per questi giorni. Buon pomeriggio Livia, ben ritrovata. Buon pomeriggio Valeria, come stai? Tutto bene Livia, andiamo avanti, procediamo, lavoriamo, tutto con il sorriso. Oggi ce ne andiamo a spasso, Livia, come sempre, come facciamo ogni domenica. E questa settimana risaliamo, Ce ne andiamo in Piemonte, ma svelaci tu dove ci porti. Andiamo a Serralunga d'Alba, Valeria. Siamo nelle Langhe, siamo a metà strada tra Torino e il mare e siamo nella zona del Barolo, che è un territorio famosissimo, famoso per il vino, famoso per i vigneti. Ed è una zona che tutti conosciamo almeno di fama, va ricordato anche che le Langhe sono patrimonio dell'umanità UNESCO. E lo ricordiamo soprattutto per il vino, appunto. Io però, che sono un po' bastian contrari, in realtà trovo che sia un territorio di una bellezza straordinaria dal punto di vista proprio estetico, paesaggistico. I vigneti, le scile ordinatissime di viti sono bellissime, secondo me. E soprattutto mi fanno riflettere sul rapporto dell'uomo con il territorio e sul fatto di come l'aspetto del paesaggio certe volte possa cambiare in funzione dell'uomo e del suo lavoro e come riesca tante volte a rimanere bellissimo comunque anche se in qualche modo artificiale, come dicono gli esperti, anche se antropizzato, insomma. Un'altra cosa che di questa zona delle Langhe mi piace moltissimo è il fatto che ogni collina, e ce ne sono tantissime perché è un territorio collinare, è sovrastata da un castello, da una torre, da una fortezza. E quindi hai questo panorama che è costellato di crinali che sono leggibili come dei tasselli di un sistema difensivo che lo proteggeva, che lo attorniava, che aveva all'epoca sia funzioni militari, perché dalla cima delle colline ovviamente vedi meglio e prima gli eventuali nemici che ti vogliono attaccare, ma aveva anche delle funzioni economiche, perché dall'alto comunque era in grado anche di controllare i traffici commerciali che si svolgevano nelle stradine. Però noi abbiamo detto che non andiamo nelle Langhe in generale, abbiamo detto che andiamo a Serralunga d'Alba, che è un paesino piccolino, 600 abitanti, grazioso ma non travolgente dal punto di vista architettonico. E però diventa una destinazione assolutamente da segnarsi in questo momento e da visitare dopo, perché è letteralmente dominato da un castello meraviglioso, altissimo, snello, perfettamente conservato, che troneggia proprio sulla cima del paese. I forgive you, mother. Come sempre un filo di storia. La costruzione di questo castello si conclude nella metà del 1300, ma in realtà ha un'origine precedente di quasi due secoli, perché il borgo di Serralunga era dominato e protetto e aveva in cima una torre che aveva naturalmente una funzione di protezione e di controllo. Pietrino Faletti, che era di una famosa famiglia della zona, riceve il feudo di Serra Lunga in dono per meriti militari. Nel 1349 fa abbattere questa torre e fa edificare questo meraviglioso castello, che da subito non ha una funzione propriamente militare, ma una funzione piuttosto economica. Cioè serve, come si diceva, ad avere una sorta di controllo dall'alto delle attività commerciali che all'epoca rendevano questo territorio assolutamente già vivacissimo. Nel corso di tutta la sua vita, questo castello non è mai stato trasformato, non è mai diventato una residenza nobiliare, e questo costituisce la sua e la nostra fortuna oggi, perché in sostanza, proprio perché non è mai stato trasformato, ci permette di visitarlo oggi esattamente per com'era. Quindi nel momento in cui varchiamo la sua soglia lo vediamo per come era stato pensato dalla famiglia Falletti nel 300. È una sorta proprio di salto nel tempo all'indietro. È una sorta di salto all'indietro e perfetta, proprio perché è davvero, come ti dicevo, conservato meravigliosamente. Dal punto di vista architettonico ha una struttura pulitissima, molto articolata, perché c'è il palacium, che è il nucleo del castello, che era tradizionalmente il palazzo residenziale oppure militare del signore che lo abitava. E questo palacium, nel caso di Serra Lunga, ha una forma molto compatta, molto solida all'esterno, ma all'interno ti stupisce con una serie di sale sovrapposte, molto grandi, molto ampie, di grande respiro. Poi c'è una torre cilindrica che ha a sua volta una torretta pensile che serviva, come dire, per fare un po' di scena, facendo vedere che il maniero era talmente controllato dappertutto da essere inespugnabile. Poi c'è una torre a base quadrata, una corte, un ponte levatoio, una piccola cappella, un cammino di ronda che adesso è stato coperto da un tetto e che permette una vista assolutamente meravigliosa a 360 gradi davvero sul paesaggio. Quindi questo castello era il prototipo di quello che un castello trecentesco doveva essere, e la sua dotazione era perfetta. E lo è tuttora, e mi viene da pensare che è anche un posto fantastico dove portare i bambini. È un posto magico, perché ci si può proprio addentrare nelle sale di questo castello, ci si può un po' in perfetta sicurezza arrampicare, quindi si può sognare insieme ai bambini su quello che poteva essere successo, insomma, tra le sue sale. E poi anche per i bambini e per i non bambini ha questa dimensione molto importante, no? È molto alto, molto snello, e quando arrivi hai questa sensazione di potenza verso l'alto, che all'epoca era fatta anche per una sorta di dichiarazione di potere. Cioè la famiglia Falletti, nel dare l'indicazione di fare un castello in un certo modo, voleva in qualche modo sì avere una protezione militare strategica, renderlo visibile da lontano, ma voleva in qualche modo anche dire che era potente, che era una famiglia che dominava il territorio, insomma. Riallacciandosi al tuo discorso dei bambini, era un po' un modo di dire: il mio castello è più grande del tuo, quindi io sono più potente di te, insomma. Livia, che particolarità ospita, o forse sarebbe meglio dire nasconde, questo castello? Allora, delle cose non nascoste molto belle, che sono le decorazioni esterne, quindi bifore, merli, archetti, fregi, quindi il fatto di renderlo gradevole, decorato dall'esterno, e quindi di farne una casa fortezza bella, privilegiare l'aspetto anche decorativo. E poi due cose segrete che mi piacciono molto. La prima è che nelle sue sale, nei piani abitativi, c'è una stanza da bagno, Valeria. Piccolissima, ma una cosa per l'epoca assolutamente straordinaria. E poi c'è una cosa che mi piace infinitamente ed è il fatto che se ci si sofferma a guardare le pareti, sempre nei saloni abitativi, si scoprono decine di scritte, date, frasi che sono state tracciate nel corso dei secoli da quelli che hanno abitato il castello. Quindi tu hai queste pareti costellate di conti, per esempio, di numeri, di scritte, di date, e hai la sensazione davvero di sentire il passo, di sentire le voci, di vedere quelli che nel corso dei secoli hanno abitato questa meraviglia. Certo, di leggere un po' quella che è, che è stata la loro storia, che è, se vuoi, qualcosa che ci collega anche molto a quello che stiamo vivendo oggi, no? In cui tutti cerchiamo in qualche modo di scrivere, di raccontare quello che viviamo, perché così è più vero anche quello che viviamo all'interno delle nostre case, anche se nessuno ci vede, però tiriamo fuori la voce in qualche modo e cerchiamo di condividerla con gli altri. È proprio vero, ed è vero che i segni lasciati sulle caverne, sui castelli, sulle pareti interne di un castello ci avvicinano, ci permettono di farci sentire un eventuale monumento come una cosa quotidiana. Immaginiamo delle persone come noi che per qualche motivo hanno deciso di segnare qualcosa e questa cosa diventa eterna in qualche modo, arriva a noi direttamente con l'emozione di quelli che l'hanno scritta, anche se è un calcolo di magari di merci, però ci lascia immaginare quello che magari il mercante in quel momento poteva pensare, stava guadagnando, stava perdendo, stava facendo affari, chissà, quindi questo è un particolare, secondo me, specialissimo di Serra Lunga, che merita la visita. Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Globetrotter 24. Ripartiamo per andare a scoprire una iniziativa che si sono inventati a Torino e provincia per creare una grande comunità capace di parlarsi attraverso le storie della propria città. Ce ne parla Daniela Broglio, che è la direttrice del turismo del capoluogo piemontese. Daniela, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, in questo momento particolare, sono già un po' di settimane che raccontiamo di come si stanno reinventando le città, i musei, le persone, come si stanno reinventando da casa loro. E anche Torino non fa eccezione. Raccontaci tu che cosa è successo, che cosa avete messo in piedi. Sì, come dici bene, noi che siamo ufficio del turismo, quindi costantemente in contatto, no? Sia fisicamente nei nostri punti informativi, ma poi con i social, con persone che ci chiedono cosa posso fare, quali eventi ci sono, insomma tutta un'attività che chiaramente, visto il momento, è crollata, no? Per cui ci siamo detti, però insomma noi ci siamo, noi stiamo lavorando tutti in smart working, pensiamo anche al futuro, abbiamo delle cose da fare, quindi insomma abbiamo pensato di contattare tutte queste nostre follower, visto che abbiamo insomma canale Instagram e Facebook che sono assolutamente seguiti, Instagram da più di 21.000 persone, Facebook da 42.000 fan, e quindi insomma volevamo veramente con loro farci vivi e magari dargli anche qualche idea per trascorrere le giornate che per alcuni insomma magari diventano proprio un pochino lunghe e costrette al balcone di casa. E così ci siamo detti, raccontiamo delle storie, ma con suggerimento da parte dei nostri follower. E allora abbiamo pensato che un giorno alla settimana di dare un'idea di racconto, e per cui taggando @turismotorino e #turismotorino sui canali che vi dicevo, si può raccontare, mandare delle foto, per cui il lunedì proponiamo cosa vedo dalla mia finestra, ma per qualcuno anche cosa sogno di vedere, e quindi raccontaci un po' che cosa, magari c'è qualcuno, insomma, ci ha mandato delle bellissime foto perché ha comunque intravede o vede più da vicino dei monumenti, dei punti di interesse artistico o paesaggistico del nostro territorio. Il martedì abbiamo invece proposto delle fotografie sul piatto preferito, su delle specialità di prodotti che, insomma, o piacciono molto, quindi una provincia golosa. Il mercoledì facciamo qualche domanda facile a quiz legato a un tema, a una curiosità. Il giovedì abbiamo pensato all'outdoor, e quindi abbiamo pensato allo sport, per cui, insomma, raccontaci, visto che non lo puoi fare, lo sport che fai. Sappiamo che moltissimi, insomma, camminano, navigano e remano sul fiume, vanno in montagna, e quindi, insomma, tante cose che ci permettono anche di conoscere il territorio. Il venerdì andare per musei, mostre ed eventi, quindi raccontaci un po' quello che hai visto, che magari ti ha colpito parecchio, o quello che vorresti vedere di eventi che magari si sono dovuti per forza di cose rimandare. E quindi anche il tuo museo del cuore, ecco, questo poi si collega, poi vi dirò anche, insomma, che hanno buon successo anche tutte le iniziative dei nostri musei. La piazza invece sabato normalmente ci troviamo tutti, no? Magari in una piazza per incontrarci, per un aperitivo, per uno scambio, e quindi la piazza è un po' il cuore delle nostre città, e ce le ricordiamo anche quando visitiamo altri luoghi. E quindi abbiamo chiesto di raccontarci un po' la piazza prediletta. E la domenica, come di tradizione, normalmente si fa una gita fuori porta, e allora raccontateci un po' un paese, un luogo, un lago, una passeggiata particolare che durante le gite fuori porta che avete fatto o che avevate in programma di fare. Per cui, insomma, ci siamo ispirati veramente a come normalmente si fa nel tempo libero, turisticamente parlando. È proprio un modo di creare una grande comunità. Eh sì, è proprio il modo di sentirsi insieme, di scambiarci delle opinioni anche un po' così virtuali o di ricordo, che però servono molto in questi tempi in cui ci sono veramente un po' dei momenti di sconforto e di vuoto, insomma, di spaesamento, ecco. E poi soprattutto non dobbiamo, cioè, secondo me questo porta ancora di più la voglia di fare anche su luoghi del nostro territorio che magari non abbiamo così sempre apprezzato, no? E che invece, ricordando, dici: ma guarda com'era bello, cavolo, adesso vorrei essere sul lago, no? A fare una passeggiata con questa primavera che, tra l'altro, per fortuna continua imperterrita a porci fiori, e insomma la natura giustamente va avanti. Senti Daniela, tu facevi riferimento anche ovviamente a tutta la parte dei musei, e anche lì siete molto attivi, avete cercato di, come dire, di portare i musei a casa delle persone. Esattamente, perché devo dire che i musei hanno tutti, no, fatto delle bellissime proposte con visite virtuali, il Teatro Regio con Opera on the Sofà, e quindi noi ovviamente, come è il nostro compito, abbiamo dato molto spazio anche a questa, molta visibilità, no, tramite i nostri post e sui nostri canali social. E devo dire che l'iniziativa ha, anche queste iniziative hanno avuto moltissimo, moltissimo successo. Questo vuol dire che, insomma, mi piace dire nel piccolissimo che serve anche a tutti, perché tutti hanno voglia di mantenere un'attenzione anche verso una normalità che in questo momento è un po' difficile magari trovare, ecco. Quindi non voglio esagerare, per carità, su un servizio sociale, ma insomma ognuno è giusto che faccia un po' la sua parte. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Con un lungo salto arriviamo in Basilicata per andare a scoprire un altro borgo bandiera arancione del Touring Club italiano, che con Passione Italia sta unendo con un filo rosso tutte le bellezze del paese. Questa settimana siamo andati a San Severino Lucano a parlarci del suo comune e il primo cittadino, Francofiore. Innanzitutto voglio precisare che si trova all'interno di un'area protetta nel Parco Nazionale del Pollino, dove abbiamo tante emergenze naturalistiche e nello stesso tempo biodiversità del mondo vegetale e del mondo animale e tanti elementi che ci ricollegano alla storia dei nostri luoghi. E questo paese, inserito in questo contesto, in effetti ne è una espressione. Il paese di fatto si trova lungo un percorso che va dalla Valle del Sinni per raggiungere poi le cime alte del Pollino. Si trova il paese sul versante lucano del parco. Noi abbiamo una prima area molto interessante dal punto di vista ambientale, che è denominata Bosco Magnano, dove in effetti c'è un torrente, il Peschiera, nel quale torrente è presente la lontra. C'è in prossimità del Peschiera anche la presenza di un fenomeno particolare, quello dell'inversione termica, in base alla quale i faggi si trovano subito a ridosso della riva del fiume, mentre i cerri si trovano un po' più in alto. In genere la situazione è inversa. Abbiamo anche un centro di acclimatazione del cervo nell'area Bosco Magnano, e poi risalendo da Bosco Magnano lungo il percorso del Frido, noi troviamo anche tanti mulini che sono stati ristrutturati e recuperati, perché intorno a questi mulini nei tempi passati si svolgeva la vita economica dei luoghi, e questi mulini sono diventati centri di accoglienza, di ristorazione, alberghi. Il paese, che è stato fondato intorno al 1400, in effetti veniva fondato perché i monaci di un monastero, il monastero del Sagittario, inviavano coloni in queste zone alte per occuparsi di pascolo e di agricoltura. Ed allora è stato creato questo paese, che ha tipicamente vicoli, vi sono anche dei portali di pietra interessanti, ma in prossimità sempre del paese, su un'altra altura, Timpa della Guardia, abbiamo anche un'opera di arte contemporanea, una ruota panoramica realizzata da Carsten Holler, salendo sulla quale è possibile poi visualizzare tutte le cime dei monti e anche la Valle del Sinni, che si trova da un altro versante. Proseguendo poi verso le cime più alte, si passa attraverso la frazione di Mezzana e si giunge poi all'area del Santuario della Madonna del Pollino. Chiaramente nel centro e anche nella frazione Mezzana abbiamo la presenza di chiese, perché qui questo momento del culto, del percorso mariano, è molto sviluppato, sentito. Pertanto la Madonna, che in effetti durante la stagione invernale si trova nella chiesa madre di San Severino, poi viene portata a spalla verso il santuario della Madonna, attraversando anche la frazione di Mezzana, fermandosi anche nella chiesetta di Mezzana, e lungo tutto questo percorso noi abbiamo anche realizzato murales che vogliono ricordare questo momento religioso. È chiaro che questa comunità è un insieme quindi di elementi che riguardano gli aspetti ambientali e i percorsi ambientali, come dicevo, i percorsi dell'arte contemporanea, nello stesso tempo questi percorsi religiosi, poi nell'area è possibile praticare tante attività sportive che permettono un contatto con la natura. E stiamo cercando anche di sviluppare i percorsi del cinema, perché sono state girate delle pellicole cinematografiche in questa zona e anche dei cortometraggi che bene evidenziano la identità del luogo. Questa festa, che stiamo proprio la festa della Madonna del Bollino, la quale praticamente si svolge nel mese di luglio, nella prima domenica di luglio. E ripeto, la statua della linea è presente nella chiesa di Madre di San Severino durante tutto l'anno, poi nel mese di giugno viene portata a spalla al santuario, nel mese di luglio si svolge l'evento religioso e nel mese di settembre la statua viene riportata poi nella chiesa di San Severino. In quell'area del santuario della Madonna del Bollino è stata anche realizzata una scultura bronzea della Madonna da Daphne du Barry, la quale è per l'appunto un'immagine, una statua della Madonna che guarda verso la Valle del Frido. E prima di raggiungere il santuario della Madonna del Bollino, lungo il percorso abbiamo anche un centro polifunzionale dove è presente un museo di sculture, di ceramiche, nello stesso tempo un museo di entomologia, ma è una ampia struttura che viene anche utilizzata per rappresentazioni cinematografiche e teatrali. Poi organizziamo anche altri eventi quando è possibile, forse chiaramente quest'anno no, tipo il Bollino Music Festival, organizziamo anche il Festival del Brigantaggio, perché la nostra storia ci ricollega anche al momento del brigantaggio che si sviluppava intorno al 1862 in questi nostri luoghi, tanto per fare cenni ed esempi di qualche evento. E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.